La prima domanda è se ti puoi raccontarmi prima di tutto il nome e cognome e chi è che lei, i tuoi genitori, e che ruolo e come ti poni sul territorio, cioè per arrivare al tuo impegno nel volontariato delle ACLI, ecco. Quindi nome e cognome, se mi racconti un po' la storia della tua famiglia e da dove è nato questo impegno. Renato Piffer, ecco, cioè, ormai sono vecchio anche a me, insomma, cioè, l'impegno e sicuramente la famiglia la ti dà, perlomeno la ti dà supporto, anche se prima sì, mio papà le sempre stampegnava nei consorzi, nella cantina, perché allora i consorzi liguri piccolini, cioè nel gestire le robe, perché fa il contadino, le robe dei contadini che serviva loro, insomma. Dopo, uno dei, forse perché dopo è difficile anche valutare le robe e dirsi le è questo o no, non è questo. Cioè, sta un periodo un po' particolare, nel senso che nel 63 sta la fine del Concilio Vaticano II e la influì tantissimo, specie di giovani di allora, sui cambiamenti della Chiesa, cioè sul tornare alla, cioè, non società perfetta, ma popolo di Dio, insomma. Cioè, nell'includere un po' tutti nell'andare avanti. Ecco, e dopo che sta il 68, è il 68, cioè è un periodo che fa riflettere tutti, specie giovani. A Trento avevo la sociologia e dopo chi da noi che sta il Don Luigi Bressan, che dopo diventa vescovo, però le sta capendo anche Besnel e le era molto attivo. Cioè, noi nevem, cioè, se ne va al ricreatorio prima a zugare e dopo dargli una mano a tenere insieme i giovani, cioè, capisci? E da lì te parti, dopo me ho cominciato a zovem nelle ACLI, cioè, mi laureavo a 30, Trenger i gruppi di fabbrica delle ACLI, e mi sono entrato nei gruppi di fabbrica delle ACLI e da lì ho scominciato in Gioventù Aclista, te fevi i corsi, gli stager, i campeggi dove che tenevi, te trovi con altri e te scominciavi a ampliare la visuale. Capisci? Dopo 1967-68 ho fatto il militare, sono a Spoleto, ho fatto il corso sottufficiali e anche lì ti trovi altra gente, anche lì ti trovi la possibilità di agganciarti, per esempio la zona Spoleto, mi sto zo 5 mesi e noi neve nei gruppi lì di Spoleto la sera, capisci se te ne trovevi, cioè, dopo che sta anche parecchi personaggi importanti, tone uno, tol Don Milani, che nel 67 l'è morto, però cioè, l'ha impostata una storia, anche se gli ha avuto la maggior parte della Chiesa contro, però l'è stata rivalutata dopo 50 anni, però resta un personaggio che ha mosso le acque nel sociale e specialmente nella scuola. Partenza con la lettera ai capellani militari per difendere gli obiettori di coscienza, dove che le stanca condannata per quella, e dopo con la lettera alla professoressa, che quella sta di tutto il movimento, anche il movimento dopo estremista che cioè le sta smosso da. Cioè, perché era un cambiamento proprio sociale dell'impostazione, cioè dell'impostazione liberale che era prima, un'impostazione aperta a tutti, insomma, che tutti hanno la possibilità di arrivare. E, cioè, quello ti vai avanti un po' alla volta e ti impegni, e dopo, avendo partecipato nel consiglio dei giovani delle Acli, e dai giovani delle Acli come giovane partecipare al consiglio provinciale delle Acli, dopo sono stato dentro un sacco di anni in presidenza delle Acli provinciali, però nel frattempo porto avanti le attività anche del paese. Ecco, dopo mi sono sempre stato legato, anche perché mi sono convinto che non è solo la tecnologia e la roba tecnica, meccanica che porta avanti, che è anche una parte spirituale, e se quella la va avanti di pari passo, la persona la può avere un certo equilibrio, cioè una serenità di fondo, insomma. Ecco, io sempre partecipavo, chiedevo una mano, insomma, insieme a tutta anche l'altra roba delle Acli, anche al mondo della disabilità, insomma, qui che aveva problemi insomma, una volta a Lourdes, per esempio, con i malai, un paio di volte a Loreto, ma dopo era tre sorelle malai a Nago, per esempio, e mi sono sempre nato, che era un gruppo anche qui di Besnel, sempre nel dargli una mamma, sempre nel aiutarli, quando era da portarlo da qualche banda, se neva, se toglieva gli impegni, ecco, e da lì, cioè, parte tutto. Dopo nel 76 c'è stato il terremoto, e allora se andiamo in Friuli, mi organizza la ricostruzione di una casa, di Pecoraro, la parrocchia la organizza l'anno dopo, quella sua a Moggio, del Friuli sopra Avenzone, e anche lì se ne gli dargli una mamma anche a loro, la famiglia Cracogna, mi pare che l'era. Cioè, e quello, cioè, e specie per i giovani, quando c'è la gratuità, la che si imprime di più che qualsiasi roba. Cioè, noi infatti il 15 di o il 20 di, non mi ricordo, il 15 sempre era a Gemona, a mettere a posto, che è stato qui che mi ha detto: mi non mai passare le ferie così belle, a lavorare dalla mattina alla sera e sfacchinare. Cioè, sicuramente uno degli aspetti del volontariato, io fa vincere il fuoco, e dopo il volontariato, l'associazionismo a Cagnano, è proprio quel che ti disinti della gratuità, perché ti elimini tre quarti dei conflitti interni nel gruppo quando non risolvi, insomma. È una cosa che mi ha segnato molto anche a me, insomma. Ascolta, volevo domandarti una cosa in particolare. Come ti sei entrato in questo edificio e come ti hai lavorato? Cioè, non si entra, chi l'ha fatto le costruì. Cioè, allora anche lì, cioè, allora bisogna partire dall'aspetto politico. Allora, se voi analizzate il Moro, cioè, che è stato uno dei statisti che probabilmente che ne è pochi a livello mondiale della sua statura, e già negli anni 60 e si va accorto che la partecipazione alle votazioni, cioè la percentuale, era sempre minore, e allora si domandava il perché, essendo un studioso e volendo andare a fondo, perché lei, che allora l'Italia l'ha presa la guerra, e agli asparti l'Occidente, l'Oriente, tutto, e l'Italia è stata messa sotto tutela degli inglesi. Cioè, ufficialmente nessuno lo sa, ma di fatto adesso sono cominciate a venire fuori queste robe. Ecco, e per esempio l'Italia non la poteva avere il ministro degli esteri, perché per la guerra non la doveva fare politica estera, capisce? Non la poteva avere il coso, acquisire l'energia per conto suo. Difatti Mattei la fa fuori subito, no? E Moro era, cioè, riusciva a vedere oltre tutti quanti. E una delle prime robe è stata la scuola fatta con la televisione. Ecco, e anche smontare quel che era il privilegio della scuola di prima con la scuola per tutti, che dopo anche lì si inserito a Milani per dargli una mano, capisci? E in quei periodi, anche qua, noi insomma avevamo questa situazione, avevamo una DC che ormai era in crisi, perché dovendo essere al potere sempre, uno non è più stimolato a doverlo arrivare per, capisci? E chi da noi che sta la crisi del comune, la crisi delle acli, e noi come gioventù aclista e venciamo a mam le acli, dopo perché le acli le gestiva il cine all'oratorio, no? E quello non le sta passando perché, siccome le rintestà individualmente, io ritengo che noi giovani non eravamo in grado, però noi avevamo la sede dentro l'oratorio. E allora dovremmo fare una sede noi per essere un po' più liberi, insomma, per... E venne fuori l'idea di vedere se chi era il Ferruccio Fedel, che era il figlio del settimo, il por settimo, che fa il fabbro. Però io ormai era anziano, era in pensione, era chi tutto abbandonare. E domandarsi se ne aveva il diritto di costruire, insomma. Cioè. E quando se ne hai su da il Don Bottieri, mio partito era allora all'amministratore in Curia, no, perché so ben come che fai voi, costruire dopo nella Sidelity, piuttosto il vendemmo. Allora fanno una cooperativa, la CIS, Cooperativa Iniziative Sociali, con Rimen 9, 4, mi pare, 5 di Besenelli, 4 da Trin, che era dentro il presidente delle Acli, il Mattevi, era 3-4 della presidenza provinciale, insomma, ecco. E acquista per un prezzo simbolico, per quello non... Ecco, e scomincia nel 72, scomincia a venire qui a scavare, a portare da terra e tutto quanto. Ecco, dopo se andai in banca, firma, fate in debito, firma a noi, insomma, del 4-5, mi pare che era stato il 4 milioni, dopo mi pare sui 14 milioni, dopo un po' di soldi ne abbiamo prestato a qualche privato, ecco, e del 74 in maggio l'endavere con le autorizzazioni e tutto quanto, insomma. I lavori li aveva fatti il coso, il Fausto Guller, il papà del, non mi ricordo come si chiama adesso, che va avanti ancora con l'impresa, la vita Zomasera, che la sposa la fiola del Marco Croz. Sì, mi racconta la giornata di questo Guller. Ecco, la struttura, la muratura, e il Querti l'ha fatti Peneri, che era il Romano, il Fulvio, l'ultimo che è morto lì, come che si... Beh, adesso mi scampa il nome. Ecco, e dopo invece l'intonaco ne fa su noi, ne va col coso, con l'impianto elettrico, la fate Luciano, e dopo l'Italo Rig sullo Trebesen. Ecco, la smaltà, chi sotto, su sola aveva smaltà il coso, mi pare il Dadam, l'Adelio ancora, perché io ho fatto le pratiche della pensione, il patronato, e mi venivo a smaltare fuori. Ecco, e noi è l'endaverte, insomma. E dopo si è cercato di cominciare ad andare avanti, però, cioè, di per sé non l'avevamo fatto solo come bar, perché si cominciava a fare attività, perché si faceva corsi per l'agricoltura, si faceva incontri per tu quel che poteva essere, insomma, perché allora i cari che da Milano le avevano staccato la porta, insomma, ne interessarsi di tutto, era uno stimolo. Era sì, cioè, ti porteva un po', dopo un po' la volta e messe insieme le cose, le attività sportive, che dopo le passai alla polisportiva, perché il gruppo del ping pong, che è il gruppo dei sci, il gruppo delle biciclette, il tennis dopo, cioè le abbiamo scominciate a noi, perché dopo il capo da tennis l'era staffato con il periodo per passare con la polisportiva, poi si è messa insieme a fare la polisportiva e andai avanti. Ecco, dopo quei giovani, noi, il suo papà, il poliziano, insomma, se trovi chi, quei giovani, un po' di tutta la Val, noi che 60-70 giovani, che venivano un po' dappertutto, capisci? E se per attività, che avevamo un giornale, 3-4 volte all'anno veniva fuori il giornale, ecco, vita sul castello, non so se ne visto qualche, se ne in biblioteca Rovereto il trovè, perché il resto manda tutte le copie in biblioteca. E quello ti impegneva a fare le ricerche storiche per Anvers, dopo le attività e quel del momento che si riteneva opportuno, dopo tante volte che era delle beghe col comune, perché ecco, cioè beghe nel senso che cioè, se chiedeva dire qualcosa, non che diceva mettere sull'articolo sul giornalino, che diceva quel che pensava in noi, insomma. Dopo naturalmente mi sono sempre tenuto fuori, perché dopo quando che te sei un po' che vede che ti hai un po' di ascendente sugli altri, che la tal fazione là che vai subito a vedere per poter accalappiare, no? Mi sono sempre stato fuori quella roba lì, perché mi interessava che ne sa avanti più la cultura, il modo di far dei giovani, cioè maurare un po' la gente, non, cioè, non mi interessava minare, capisci? Ecco, e dopo in quei periodi ho sempre portato avanti anche il collegamento, perché la raccolta della carta del Ferveccio le partì ancora dal 68, perché era il Don Michele che allora era chi e Capelan, e prima il Don Francesco, che era chi capelam, e io andai in Brasile missionari, in delle periferie di San Paolo. E nel 75 mi sono andato a trovarli, e con quello mi sono anche a Nova Trento, perché era il centenario dell'emigrazione di Santa Caterina, Nova Trento. E prima di andare ho fatto tutte le ricerche, perché il Don Guetti aveva fatto una ricerca sull'emigrazione, che dal Trentino era partito circa 23.000 persone, e dal 72 all'85, all'86, cioè se pensi non è niente l'emigrazione che c'è adesso rispetto a quei numeri lì, cioè solo dal Trentino, cioè non è che... Ecco, mi sono via al centenario e dopo ho avuto i collegamenti con quei, quando che dopo più tardi venivo qua i giovani a studiare a San Michele, il sabato la festa veniva a me a casa, capisci, 756, cioè, e dopo ho sempre tenuto i collegamenti con i missionari, anche perché ero sempre collegato anche con l'aspetto religioso, che dopo il Don Michele le na a Recife, il Don Francesco le na a Fortaleza, perché a Recife era Don Elder Camera, a Fortaleza era Don Oshider, che era il vescovo e cardinale, a San Paolo era Arnes. Ecco. Volevo domandarti, Renato, te ne raccontavo come è nato questo edificio, non te sei entrato, la Vefannas, com'è che te l'hai lasciato? Cioè, il percorso che sta fatto, dopo te dici, boh, adesso va avanti. No, cioè il percorso, allora, che era all'inizio gran sacco di giovani, e anche per la gestione, cioè grazie a tante tutele, tante, capisci, che veniva chi, che si è dato da fare, che le ha lavorato, perché, cioè, delle attività, capisci, se lavorava un po' tutti, cioè non è che abbia fatto me, cioè, mi può avere cioè dopo l'aver fatto affidamento a me perché diceva che ero, ma cioè, è perché ha lavorato tanta zinc, le venivo su. Non è insomma che una persona sola che fa queste robe, perché era Luciano, perché era Lucio, perché era il Calavin, perché era il Fiorenzo, e Martinotte, prima che era il Domenico Comper, dopo che era il Renzo Bucella, che era l'Enrico Undertoller, capisci? Cioè, cioè l'Adelio Comperini, che è stato uno di quei che ha dato, capisci? Ecco, dove che per esempio l'Adelio Comperini, quando veniva su Carla, che era sua mamma, che era sempre stata impegnata nel sociale, nell'asilo e tutto quanto, era quella che teneva, capisci, era anziana, la che teneva forza ai giovani, capisci? Anche perché, cioè, non è che tutte le robe le vaga sempre lisse, tranquille, tutto quanto, perché anche a Besnel, allora, tornando a Bondrio, e Besnel che era do bar, che era il bar del castello, che era del Comper, e il bar dell'altro sora, il dopolavoro. Ecco, da una era i comunisti, dall'altra era i democristiani. Ecco, e che era una divisione del paese forte, e una divisione ideologica, anche se non la era religiosa, perché anche i comunisti, quando che era da Natale ne va tutti a confessarsi, ne va tutti in chiesa, insomma, per dire, c'erano le feste, capisci, gli erano tutti religiosi, però che era su scontro ideologico, ecco, e noi, perché dopo che era l'altro bar, che era prima Masera, dopo gli aveva tolto il Carlito, però quello non era tanto frequentato, dopo l'altro era la Posta Vecchia, ma quello era di passaggio, ecco, e noi se ne andai a romper questo equilibrio, da una parte nei democristiani e dall'altra nei comunisti. Guerra i liberi battitori che ne deva, cioè, ne batteva le mani, perché meno male che, capisce? Da una parte, insomma, guerra gente anche decisa che diceva, messo il covo del diavolo, insomma, capisce? Perché, cioè, chi veniva dentro tutti e si cercava di. D'altro canto, se non te superi queste robe qui, dopo mi ricordo che era Don Vito, stendevi in Calomega, e gli va su sulla porta del suo ufficio e gli va scritto su: non fare del bene se non hai il coraggio di sopportare il peso dell'ingratitudine. E allora bisogna, cioè, mettere in conto queste robe, capisci? Ecco, e dopo se ne è avanti, dopo è venuto le generazioni dopo, è venuto i giovani, se ne è avanti, e mi pare che fino al 92 mi ho tirato avanti, poi mi sono sposato vecchio, e ho visto che, cioè, ne va avanti, mi dà le dimissioni, cioè, sono sempre stanno delle acri, insomma, però... Se viene una roba per un'età che mi ricordo quando avevo 20 anni, che insomma entra qua, è che qua non si parla di politica e non c'è grandi polemiche, le discussioni. Era anche così? Ma no, cioè si parliva anche di politica, anche perché quando che fai gli incontri, che fai le robe, cioè le robe politiche, insomma, dopo dei partiti forse no, capisci? Anche perché, cioè, se sempre stai abbastanza libero, lasciando che la scelta ognuno, perché, cioè, ma di politica, cioè, si faceva politica. Cioè, dopo, cioè, che sarebbe un sacco di robe, di aneddoti, di robe, capisci, però, cioè, 20 anni di... Non so se Stefano è veramente qualcosa. Ricordo quando era suo papà con... E dopo chi è che era chi, il dottor Eda Brancolino, insomma, che dopo stessi che la sera fin tardi che fanno incontro con Giannini, che era un insegnante di filosofia italiana e filosofia di magistrale Rovaredo, no? Su questioni filosofiche, proprio era una roba, capisce? Argomenti, cioè, che incendiavano bene la serata, insomma. Sì, capisce? Cale Clara è un vero laboratorio sociale, cioè anche sull'onda dei Dominani, dei Moro, sì, sì, sì. questo impegno, sì, dopo quasi con tanti il socialismo cattolico, il Ciameria, insomma, con tanti impegno. Ma cioè, il cattolicesimo, sapete, perché il pre-comunismo perfetto è stato Gesù Cristo che la fa, e gli altri dopo, cioè, se tenessi a cercare l'analisi dei Gramsci, che dopo Togliatti non la portava avanti, ma Gramsci richiedeva considerazione al cattolicesimo, perché lo riteneva opportuno, non come supramobile, capisce? Cioè, è un po' il problema dopo delle questioni politiche di votazione, perché mio papà è sempre stato socialista, ma uno che comunque considerava il cattolicesimo come imprescindibile all'interno della società. E quindi mi sono cresciuto anche in questa cosa qua, in generale del rispetto e di lavorare tanto nel sociale, perché mi diceva: ti, se ti vivi in paese, te devi partecipare alla vita della comunità. Allora, amico, avevo, te dica, forse 5 anni, forse, sicché i primi anni 50, e mi ricordo che mio papà c'aveva il car, una volta ogni tanto, quando gli chiameva, veniva a cargarmi, ricordo quella volta Renai, che era il Saiani che faceva la casa, gli a cargare il car della terra che veniva su a fare la canna, e poi Chizzi che diceva di lei, e veniva a stupare le buse delle strade. Cioè, non è che il comune gli aveva soldi subito dopo la guerra, capisce? E allora l'azienda veniva, capisce? Cioè, le robe che dopo la boccia gli resta impresse, queste robe qui. Una cittadinanza attiva, insomma, proprio. E beh, perché veniva fuori dalla guerra in qualche modo, capisce? Doveva, anche perché, cioè, non era niente in allora. Allora, cioè, per Gair è un parametro, per esempio, non so, adesso se vedi questa tavola qui, le linee che vende alla Varendena, le mie portazioni, mio fratello col trattore, e dopo il Damiano, il Filippo, il Coso, perché fa tagliare gli assotti, no? E dopo porta gli assotti e li ha messi insieme, gli fa la tavola, insomma, per dire, capisci? E una volta mi ha fatto perché la festa della mamma si fa sempre spettacolo in teatro, no? E che erano le maestre dell'asilo, che era la maestra Alana Undertoller, che era la maestra dell'asilo, che ti arriva quella. E si faceva sul spettacolo, si che fa sulla Senna, sul coso, e so che mi fa su una baita di montagna, cosa. E ne serviva una finestra, no? E che sta il coso, l'Adelio Zambel, suo papà del Beppi, agli slagomi e gli con la finestrella, e non portava una finestrella, e l'era fatta, la sua sta 2 centimetri per 2 centimetri, e il coso, il legno della finestra. Allora, se pensi, quando gli fa quella lì, vuol dire che lei non ve n'era. Capisci? Scusa, non so spiegare qualche domanda. No. Che augurio, che messaggio ti puoi dare alla nuova assemblea? Ma cioè, mica ne avrei tanti. Cioè, perché a me piacerebbe le robe pratiche, no? Non so, per esempio, chi che sta al Covid, che sta didattica a distanza. Quanti bocci che avevo noi che avevo problemi con i computer da collegarsi per le lezioni, non so, ne sente formai, salenti, che te danno a mano. Cioè. Adesso quella parte ti rispondo, penso che potevi che sia stai con problemi, ma no, non dovevi andare a mano, perché comunque qua era un salai. No, lo so, però che mi sa. No, perché al di là del c'era da verde, perché le robe, le parte anche, perché una telefonata, capisci, te metti insieme. Ti parli di formazione, quindi di continuare l'idea di formazione. Beh, l'informazione è basilare. Cioè, perché se ti noti che da verzi gli occhi la gente, cioè, allora, è un libro interessante di Don Mazzolari e Don Astori, che le due amici, non so se conosci Don Mazzolari, Don Primo Mazzolari, le sta uno che bastona dalla Cisa, ma che dopo il concilio va dal resume a Iro, insomma, Iro le morte nel 59. Ecco, dove che l'ENA militare è volontario la prima guerra mondiale, perché il credeva, perché dopo l'expedit della Cisa con Pio, no, aspetta, Leone XIII, perché l'era stato, o Pio IX forse l'estate, perché si è rifiutato dopo l'occupazione di Roma da parte dei Savoia, cioè che stanno attrito tra la Cisa e lo Stato, no? Ecco, con la prima guerra mondiale, che sta tanti preti, che n'ha per superare quell'attrito, per dimostrargli che la Cisa le, capisce? Ecco, e l'erano convinto di poter fare del bene, però le atrocità che l'ha vista nella guerra, e dopo di fatti l'ha scritto dei libri contro ogni guerra, no? Cioè, quelli che ha dei libri bellissimi, libretti, Mazzolari contro le guerre. Ecco, e gli scriveva il suo amico La Storia, che era chi, che tra l'altro Elo era in Germania, perché in Germania gli ha mandato italiani, perché la Germania era per la guerra, perché doveva spartirsi le armi che gli aveva avanzato tutto quanto, no? E gli scriveva, sperente che manda dei putaliani, perché si manda i francesi, perché i tedeschi e i francesi, cioè la Francia era stata invasa diverse volte, che sta aperta l'Alsazia, la Corsica, cioè chi invia subito un'altra guerra, e di fatti dopo nel 1939 ne fu un'altra, no? E che diceva, bisogna che cerchente di sensibilizzare la gente, istruire la gente in modo che la capisse le robe, cioè allora, capisce? Ritornando al nostro discorso, la formazione, ma conoscere il mondo, conoscere se stessi, ma quella bisogna continuarla sempre, anche per capire cioè per avere una visuale sul mondo, perché adesso per esempio non so, gli acchi li impegnai chi ne dell'est, per i profughi che arriva dall'est, no, con l'Ipsia. Ecco, noi chi sente quel che fa le acli, perlomeno, sente i problemi che è, capisce? Sente quando che dalla Bosnia Erzegovina passa in Croazia, quando che gli cava le scarpe e li manda di ritorno d'inverno, capisce? Cioè, queste robe chi. Infatti è una cosa curiosa, perché era quella tragedia del Mediterraneo, ma è una tragedia enorme, che in cui non ne parla nessuno. Che il 90% dell'immigrazione clandestina, la passa dai Balcani. Ti capisci? Cioè, e noi di queste robe chi? Cos'è che sa bene? La nostra azienda, cos'è che la sa? Capisci? Perché dopo è i Salvini, perché è fuori con la corona, capisci? Però se l'azienda che dà verzi gli occhi, dopo gli dà sulla testa anche a Salvini, capisci? Non è che lo tocca tu pur perché è così. Dopo può essere anche dall'altra banda, capisci? Perché non so, ti butta fuori a leggi, non so, Panella gli aveva il 3%, capisci? E le idee di Panella le stai adoperai da tutte le sinistre, capisci? Ecco, e Panella quando l'è morto, e gli aveva il crocifisso di Don Romero, di San Romero, capisci? E gli diceva, non sono più buono di staccarmi dal crocifisso di San Romero. Capisce? Cioè noi dobbiamo cercare che alla gente che la capisce le robe. Non so, sapete qualcosa di quel che succede nel Tigray adesso, in Etiopia, dove che sarà milioni di bocci da fino ai 6 anni che muore di fame, che gli mai, perché il centro missionario di Trent l'ha impegnato con 35.000 euro l'anno nel Tigray per dargli da mangiare non so quanti bocci dai 3 ai 6 anni. E adesso non gli lascia passare gli aiuti, perché è il tiro incrociato, no? Perché i polmoversi sono la notte, se non li intercettai, per andare a cercarsi da mangiare. Ecco, noi sapete queste robe qui, eppure che mandano armi. Dice, cioè, sente qualcosa delle nostre industrie, delle armi che vengono in Italia, o di quelle, straniere che lavora qui in Italia? Cioè, è un po'... Cioè, penso che c'è un'attività degli ACLI, di informazione, perché dopo può diventare anche oltre, capisce? E, non so, è giusto che fente fare tutto in Cina? Capisce che se la Cina la dice no, va in crisi tutto l'Occidente? E sappiamo che un terzo delle super porte container che girano dei mari li inquina anche tutte le macchine qui sul mondo. Sì, dai discorsi no, anche sulla monocultura qua. Ma no, sono d'accordo, però queste robe bisogna cominciare a portarle avanti. Certo, certo. Bisogna, capisci? E all'inizio ti sarei trattata da però, cioè, perché dopo li ven fuori, capisci? Dopo, ma è venuto l'alluvione, perché? Capisci? Cioè, se non è le acli, cioè le acli, se non è quel che d'uni che se lo da fare per gli altri, che riflette anche su ste robe, e dopo si può fare, cioè, i collegamenti e le alleanze con chi ste robe, capisce? Però se hai qualcosa da portare avanti, e mi penso che sia tanti anche giovani che possono interessare a ste robe. Perché di solito i giovani, quando ti coinvolgi sulle robe concrete, gli è disponibile. Va bene, non ti dai, Stefano. Ecco. Un altro messaggio che mi ha dato Luciano, il Caravin, al gruppo, è sta di divertirsi. Cioè, di divertirsi e stare insieme, di fare queste scene, queste ritrovi, sì, perché crea unità, sì, quello, sì, ma quello si supera piccole divisioni. Però quello, cioè, te le fai quando te fai anche lavoro, capisci? Mm. E allora è l'ora che hai il gusto di trovarti insieme e gratificarti, capisci? Certo. Perché sennò te le fai in se stesse, non ho, cioè, lega il tempo le trova, insomma, non. Perché non so, se guardi tutte quelle associazioni che fa quelle robe lì, le va tutte a morire, insomma, perché... anche perché se dopo... Se no, uno scopo. Anche perché dopo noi mangiamo massa. Perché di fatto, insomma, siamo tutti sovralimentari e dopo abbiamo problemi, una serie di età, tutti una serie di problemi. Cioè, capisci? Cioè, è giusto fare la convivialità, quella la per ostica in lavoro, sì, ma insomma, capisci? Va bene. Dopo, per esempio, non so se può interessarvi, e siccome mi con altri, con un gruppo da nomi, qualcosa, e ne siamo interessati per fare la lapide a Don Francesco, che è la morte del 68 di Nadal, e siccome la sorella è morta, la sorella, dopo non gli ha più nessuno, né odi, non si interessa, e allora abbiamo fatto la lapide su, e adesso sto andando avanti a vedere di continuare, perché era timorest, di continuare a fare qualcosa per le sue attività che gli avevano balla via. Dalle ultime informazioni che avevamo, perché abbiamo fatto un incontro, che la tomava mi pare anche. Può essere. E che via da Laura Preto, suo marito, sono figli stai delle zone, siamo messi in contatto, e il Fornasier, che è l'altro prete che abbiamo insieme, che è quello da Bolzano, anche Elo dovrebbe tornare in qua, perché attorno agli 80 anche Elo è un po' ormai malmesso. E subentrerà un altro prete al posto di Don Francesco, che non so se è di quel locale o se è al posto di Don Fornasier, e è un prete spagnolo che deve essere abbastanza in gamba, insomma. Ma quel fatto sempre che tra l'altro laurea anche